America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, torniamo oggi su Medio Oriente, su ISIS, la guerra, la coalizione contro il califfato che minaccia, devo dire, tutti noi e non soltanto la stabilità del Medio Oriente. La notizia è che il generale Dempsey, che è il capo di Stato Maggiore delle forze armate americane, ieri in un'audizione al Senato ha detto che forse ci vorranno le truppe di terra. Se i bombardamenti aerei arriveranno solo fino a un certo punto, ha detto Dempsey, dovremo forse organizzare delle operazioni di truppe speciali. Questo sarebbe un passo in avanti, ovviamente molto importante e molto diverso da quello che aveva in mente Obama. Cosa è successo in questi giorni? C'è stata una conferenza stampa a Parigi dove una trentina di paesi che fanno parte della coalizione, alcuni alleati tradizionali come la Francia, come l'Italia, ma altri non tradizionali come Australia, Cina, Russia, hanno tutti riconosciuto che la minaccia dell'ISIS va assolutamente combattuta e debellata. Quindi quel punto d'incontro che abbiamo auspicato in passato, si sta cercando di trovare, qualche passo in avanti si è fatto, ci sono mille problemi. Uno di questi problemi è ruolo dell'Iran, perché il segretario di Stato Kerry ha detto che ci sono dei canali privilegiati. E però la cosa è interessante perché, sentite cosa ha detto l'altro giorno Khamenei. Harfoi che bizanan, harfoi puch va tu khali va jahaddar. Az jumle un chizayi che man ro. Ecco, qui Khamenei, che è appena uscito da un ospedale dove ha avuto un'operazione per la prostata, dice: oggi in ospedale sono stato benissimo perché sentivo queste cose che mi rallegravano, e cioè le dichiarazioni americane che dicevano che avrebbero bombardato l'ISIS in Siria con noi. E quindi prendeva in giro gli americani e diceva: non se ne farà nulla, non lavoreremo insieme. E poi vi dicevo queste dichiarazioni di Kerry. Situazione confusa, voglio parlarne con Maurizio Molinari, vecchio amico, collega che adesso dall'America, ormai da qualche tempo, si è trasferito in Medio Oriente. Maurizio, buongiorno, ti sei trasferito, devo dire, in un momento caldissimo. Sì, buongiorno Mario, ne succedono di tutti i colori, letteralmente. Direi che hai avuto fiuto, come dire, giornalistico, perché è esclusivamente professionale quello di andare in una zona che improvvisamente è al centro del mondo. Ma torniamo all'attualità, l'Iran gioca un ruolo importante. Se un domani diciamo che gli americani procedono con dei bombardamenti e le truppe saudite possono decidere, sempre che lo decidano, di entrare in Siria, questo non credo vada a piacere molto a l'Iran. Ma la strategia dell'amministrazione Obama è stata negli ultimi mesi di cercare un'intesa, una composizione con l'Iran, di individuare nell'Iran un interlocutore per chiudere le crisi aperte in Medio Oriente, dal nucleare di Teheran stesso fino alla crisi siriana e anche allo Stato Islamico, il califfato in Iraq, anche perché sono estremisti sunniti contro i quali gli sciiti si battono. L'interrogativo è se tutto questo effettivamente è possibile oppure no. E le notizie oggi di Kerry lasciano intendere che l'America continua a battere questa strada, anche se le parole dette da Khamenei, quando con ironia lui ha detto in un discorso televisivo hanno offerto la collaborazione a noi, ma noi non la possiamo accettare, perché se gli Stati Uniti tornano in Iraq continueranno a compiere gli errori commessi negli ultimi 10 anni. Tutto questo lascia intendere che la differenza fra i due paesi da un punto di vista strategico rimane. Ecco, gli Stati Uniti non avrebbero potuto proporla comunque ufficialmente, perché sappiamo che dall'altra parte l'Arabia Saudita ha detto: se per caso vi sognate di invitare l'Iran al tavolo dei lavori, alla conferenza, non ci presentiamo noi. Ecco, Maurizio, c'è un groviglio molto complesso. Cosa vedi come sviluppo possibile? La mia impressione, Mario, è che sullo sfondo ci sia, come tu dicevi giustamente un attimo fa, il duello fra l'Iran e l'Arabia Saudita. In questo momento lo Stato Islamico, il califfato di Abu Bakr al-Baghdadi, è nemico di entrambi. I sauditi temono i jihadisti sunniti perché temono la possibilità di una rivoluzione in casa, e gli sciiti li considerano i peggiori nemici. Quindi c'è una convergenza teorica, pragmatica, possibile fra i due giganti del Golfo. Il punto però è che i giganti vogliono esiti differenti, perché sono in competizione per la supremazia nel Golfo, ed è questa la vera partita difficilissima all'interno della quale l'amministrazione americana sta tentando di mettere assieme una coalizione internazionale, dove, anche lì sono d'accordo con te, uno dei talloni d'Achille è la posizione della Turchia. Imbarazzante per gli Stati Uniti il veto turco, un paese della NATO, non solo a usare le proprie basi, ma anche ad impegnare la NATO in quanto tale nell'operazione contro ISIS. E poi ci sono le notizie degli ultimi due giorni con questo rapporto dell'Osservatorio sui diritti umani in Siria, che imputa alla Turchia il libero passaggio dei volontari jihadisti verso la Siria. Nel mese di luglio ne sarebbero passati attraverso i confini turchi circa 6.000 di volontari finiti nei ranghi di al-Baghdadi. In chiusura rapidamente, Maurizio, in tutto questo il negoziato fra israeliani e palestinesi è passato completamente in secondo piano, non se ne parla più. Qual è lo stato delle cose, tu che sei lì, nel tentativo di riprendere le fila di un negoziato di pace? Ma io sono stato nei giorni scorsi a Gaza. Il nodo è la gestione della ricostruzione, una torta da 6 miliardi di dollari. La comunità internazionale è pronta a dare i soldi, a se è permesso che riesca a raccoglierli, ad Abu Mazen, ma Hamas li reclama. Il rischio di un cortocircuito fra palestinesi è reale, può portare Hamas a tornare ad attaccare Israele, innescando quindi un nuovo conflitto. Se a questo aggiungiamo che Netanyahu e Abu Mazen avevano promesso di incontrarsi per rilanciare il negoziato, ma non lo hanno fatto, tutto questo si spiega anche con la pressione di ISIS ai confini di Israele. Tanto per parlare della Giordania, Netanyahu più volte ha detto negli ultimi giorni: siamo pronti a intervenire in Giordania per difendere il regno hascemita dalle aggressioni di ISIS. Insomma, anziché andare verso un binario di pace, si moltiplicano i fronti di guerra. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Un documentario sul gruppo rock The Doors, girato alla band nell'estate del 68, vede finalmente la luce 46 anni dopo Feast of Friends. Questo il titolo del film autoprodotto dai Doors, non era mai stato completato a causa dei problemi con la giustizia di Jim Morrison. E vista la situazione di tensione, di fronte, di battaglia, di contenimento dell'ISIS, di soldati in movimento, The Doors, The Unknown Soldier. Breakfast where the news is read, television, children fed. Unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head. And it's all over for the unknown soldier. It's all over for the unknown soldier. Che tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!